Portugal, te ando escuchando, Portugal, te ando escuchando, son mano negra, no está. Italia, copiado, 73, saludos, mi nombre es Freddy, estoy en Pensilvania, Norteamérica, ¿cuidado? Yo hablo español también, por accidencia español, cuésele. Ok, Claudio, estoy en un pueblito de Pensilvania, Norteamérica. Adelante, adelante, cuésele, estamos por aquí copiando, adelante. Mi nombre es Freddy. QSL, mi hermano, QSL, por allá, 7 de noche. Yo por aquí están mis barcos. Che. Hola. Hola, questo è il canale 10, c'è qualcuno? Hola, su 10 c'è qualcuno? Sul 10. CQ canale 10. C'è qualcuno sul 10? Avanti sul canale 10. Ciao Carlo, ben sentito. Ciao Roberto. Niente, io stavo finito di cenare adesso, stavo cenando e quindi sono solo soletto qua, avevo la radio accesa, ho detto vediamo se entra qualcuno. No, adesso ero in altre bande, poi c'era qualcuno, stranamente non ho capito come ha fatto a entrare nel ponte e diceva guarda che non puoi entrare qua, identificati dal nominativo, diceva sto cercando Margherita. Ma sulle frequenze vostre? Addirittura sul ponte, oltre che sulla frequenza era sul ponte di Fiume Santo, infatti non capisco chi sia. Prima non stava uscendo, adesso c'è qualcuno che c'aveva qualcosa, qualche apparato, ma stranamente stava utilizzando i tuni, e per recitare il ponte utilizzava i tuni, per cui non riesco a capire cosa stava facendo. Dicevo identificati con nominativo, non diceva, sta cercando Margherita. Assurdo, sui punti ripetitori la cerca Margherita. E a volte si fanno anche sorridere queste cose, dai, non dovrebbero accadere, però pazienza, dai, ogni tanto bisogna anche sorridere, no Robè? No, ma finché tu dici, io entro in bandiera amatoriale direttamente, per dire, cioè noi abbiamo 525, il canale diciamo di monitor, dove parliamo, come può essere questo canale 10, però questo è entrato con i tuni, perché per attivare il ponte devi mettere i tuni 74.4 e più devi mettere lo shift di meno 600, e infatti ho detto chissà che apparato stava utilizzando questo. È sicuramente qualcuno che ha magari un apparato che gli consente sia di mettere i toni subaudibili eppure lo shift, capito, e conosce anche le frequenze, quindi non è uno che così per caso ha schiacciato il PTT e si è messo a parlare, vuol dire che aveva memorizzato insomma quelle coordinate con i toni e lo shift, insomma, ed è così. Sì, ma allora io diciamo, tutti abbiamo ascoltato, non c'è niente di vietato ascoltare qualunque frequenza radioamatoriale, non c'è problema, però a inserirti tu in una frequenza utilizzando le cose, i toni e lo shift, non capisco l'utilità, perché non si è presentato, perché io dico ascolti, stai zitto, non dici, sto cercando Margherita, adesso c'era convinto che era il 27 questo, o con qualche PMR, però la cosa strana è che aveva, utilizzava il ponte, non riesco a capire quello, ma poi non mi sembrava una persona molto preparata, perché quando ho letto il nominativo, ma il nominativo io non ce l'ho, io non ce l'ho. Oppure magari gli è stata data qualche altra radio, capito? E magari c'era impostata in memoria quella roba là e lui ha premuto e magari era convinto di o di essere in PMR, quelle radioline là, quelle frequenze là, insomma, neanche il 27, perché ero acceso io qua e non, da una mezz'ora circa mentre cenavo e non ho sentito niente in 27. A meno che non sia qualcuno, che mi stanno venendo dei dubbi, tipo qualcuno che si porta, lo utilizza come VHF marino, però non si è reso conto che era in mandala di amatoriali, anziché utilizzare i canali, diciamo, che tra l'altro non si dovrebbero utilizzare, per uso professionale soltanto è permesso, però probabilmente lui si è portato, magari qualcuno gli ha venduto un VHF civile, diciamo, per uso normale radioamatoriale, e lui con la moglie dice, Maria era lontano, dice mettiti su questo ponte anche tu e parli da quello, come stiamo parlando noi adesso, però non mi era mai successo una cosa del genere, sinceramente qualcuno che faceva gli scherzi, sì, però in diretta, mai via ponte, non ne avevo mai sentito io. Non è sbagliata quella questa cosa che tu hai detto, che magari qualcuno gli ha venduto, gli ha detto guarda fai così e così, gliela magari venduta già con quelle impostazioni là, tu schiacci e parli perché tanto sei collegato a un ponte, capito? E magari ha ceduto la radio a qualcuno che non sa neanche cosa ha in mano e dove sta trasmettendo. Può essere anche una cosa del genere, ma roba da matti. L'altra volta invece su 525 c'erano quelli che fanno la guerra assimilata qua in un paesino vicino qua, ma se uno ascolta magari e non si rende conto di cosa, eccolo lì, prendilo, sparalo, fai attenzione che nascosto dietro quel cespuglio, sembrava tipo una cosa, un atto terroristico, qualcosa del genere, poi alla fine ci siamo resi conto e ho detto attenzione, spostatevi da lì che siete su bandiera radioamatoriale, ed erano con quei LPD o PMR, quelli tipo Boafeng, i giocattoli lì così, e loro comunicavano tra di loro, attenzione dietro il cespuglio, sparalo, prendilo alle spalle, cioè uno che ascolta magari non sa di cosa stanno parlando, uno dice questi chiamiamo la polizia, c'è qualche rapimento, qualche atto terroristico, e questi stavano occupando ma erano fortissimi, vabbè io ci ero vicino, il paese Florina si è vicino, viene ad aria da me, però arrivava a fondo scala, arrivavano con 5 watt queste radio ed erano voi portati lì. Può essere sì, perché quei Boafeng cinesini magari hanno diciamo una spaziatura di frequenza tale che, però proprio quella frequenza che usate voi come frequenza monitor dovevano beccare, e chissà che magari qualcuno che magari stava ascoltando e poi l'ha lasciata così e gli hanno detto ma andate tutti in questa frequenza, capito? Gente che non ne capisce niente, gli dà in mano questi apparecchietti e fanno danno, capito? Perché magari vanno a occupare delle frequenze che non si dovrebbe. Non so, ma quindi questi Boafeng ne stanno riempiendo tutto il mondo, cioè li usano anche per usi normali, cioè sei col camper, anziché usare gli LP quando sono vicino all'altro, quelli che fanno tipo, come si chiamano, parapendia e cose del genere, ce li mettono per coordinare tra di loro, cioè anziché andarsene magari su una frequenza completamente fuori, ma questi Boafeng ne è da tutte le parti, se tu vedi, adesso ti danno anche a prezzi ridicoli, coppie, per dire una coppia a 40 euro, ne prendi 8 e te li fanno a 50 euro, 60 euro, cioè prezzi assolutamente bassi, e la gente poi non sa di quello che ne fa, dell'uso che ne fa, li utilizzano come fossero delle walkie talkie, però no, 5 watt sulle radio, non sono da 500 milliwatt come dovrebbero essere per i limiti di legge, devono essere canalizzate, quelle sono la sintonia continua. Io sto pensando che questo non avesse un buon fegato, magari si è messo d'accordo con la moglie, con la compagna, la fidanzata, non lo so, ha detto vattene su questa frequenza e magari non sapendo che c'erano i punti di mezzo. Esatto, e vabbè, purtroppo capita che c'è gente che usa delle cose che non dovrebbe, magari è niente, e questi problemi a volte sono inevitabili, perché su internet trovi di tutto, sì, ci sono anche nei negozi, io a volte girando a Sassari, nei negozi dei cinesi, quelle che hanno 8 canali, Boa Feng, però se tu hai il programmino, praticamente su quegli 8 canali ci metti tutto quello che vuoi ed escono con 5 watt e non con mezzo watt come dovrebbero, capito? E loro ce li hanno, li usano anche nel negozio, capito? Escono tutti con 5 watt quelle radioline, costano 12 euro mi sa ognuna, non costano proprio niente, però magari sono in, non vorrei sbagliare, ma sono in UHF, capito? E quindi la gente prende, compra quelle, poi ci sono le altre che vanno in VEDU, capito? Costano pochissimo e non si mettono problemi, capito, a comprarle e poi le usano così. Certo che si vendono quelli larga banda, oltre ad avere le V e le U, diciamo, quelle normali radioamatoriali, c'hanno anche altre bande, 470, 100, 125, perché sono tipo, hanno diverse bande, e di lì va a finire cose anche delicate, tipo aviazione, aeronautica, cose militari, cose della protezione, cioè, diciamo, della pubblica sicurezza, un sacco di roba, più c'hanno lo scanner che poi possono funzionare su tutte le bande, vabbè, lo scandalo non fa male a nessuno, però se tu vai in trasmissione a 4,70 o se vai in trasmissione a 125 e lì vicino c'è la cosa, a 118 ci sono l'aeronautica. Sì, esatto, purtroppo la gente pasticcia, diciamo, pasticcia comprando cose che non dovrebbe comprare, capito? Io niente, io qualche giorno fa mi ha chiamato Albino, siccome avevo la radio, l'altra fuori uso, che mi ha detto forse riesce ad aggiustarmela, però si deve trovare un pezzo, capito? Però a questo punto, siccome non sono sicuro sui tempi, e io gli ho detto guarda, se riesci ad aggiustarmela bene mi fai un fischio e vengo a riprendermela, se no prenditi tutto il tempo che vuoi con la calma, dice, perché l'ha ordinato e non gli è arrivato. Adesso l'ha ordinato da un altro sito e pare che glielo faranno avere, capito? Probabilmente riuscirà a mettermela a posto. La mia radio si era spenta completamente, ho provato ad accenderla una volta, si è accesa un attimino, si è rispenta, quindi non so cosa sia successo. Lui mi ha detto che una parte di scheda, capito, che si è bruciata, però si può sostituire, capito, perché sono in serie in quella radio lì, e quindi ha detto che molto probabilmente riuscirà anche a metterla a posto. Ho detto vabbè, se la rimetti a posto bene così, tanto la spesa mi ha detto che non è tantissima, una quarantina di euro tra manodopera e pezzo, capito, perché è una scheda piccola, mi ha detto, e gli costa intorno ai 18 euro, quindi non è molto, e quindi poi dovrei riprendere di nuovo con la mia vecchia radio, altrimenti me ne prendo una nuova. Ma di che radio stai parlando? È quella che avevo io, l'Albrecht AE5890. Adesso che radio sta utilizzando? Adesso sto usando quella che avevo in auto, il President Bill, quello piccolino, quello che sta nel palmo di una mano. Oh, va benissimo, il microfono è palmare? Sì, il microfono, questo è palmare ed è anche col cavo corto, capito? Quindi non ho neanche prolunga, invece in quella là avevo una prolunga originale che mi consentiva di starmene seduto sul tavolo, capito? Adesso sono un po' in condizioni precarie finché non sistemo tutto. Piano piano, dai. Ma non ti piacciono altre le stazioni base come radio? No, Robè, non è che non mi piacciono, mi piacciono e come. Il problema è che io non ho molto spazio, nel senso che per comodità io mi sono messo la radio in cucina, perché avevo un mobile, un pezzettino di mobile a disposizione, c'erano dei libri che ho tolto e quindi mi ho fatto lì la piccola stazione. Avrei la possibilità di mettere una mensola, però mi andrebbe a finire anche un po' dietro la porta, quindi potrei mettere anche una radio base più grande, però alla fine rimane un po' relegata dietro e quindi non mi va, e quindi io volevo trovare qualcosa di compatto, capito, che mi entri nel mobile come tipo quella lì. Ce ne sono diverse, c'è un sacco di roba in giro, ce ne sono anche di HF, capito, però quella lì era, capito, omologata e aveva le bande laterali e aveva la possibilità della selezione, che ne so, canali polacchi, quelli tedeschi, eccetera, mettevi Europa e ti dava sia i canali che, oppure potevi scegliere la frequenza, capito? E niente, quindi andava bene così. Adesso, una volta che la apri, purtroppo la garanzia era terminata, perché l'ho avuta più di 2 anni, quindi decade anche una volta che l'hai aperta, decade quella sorta di omologazione, insomma, anche se comunque trasmetteva in 4 watt e in 12 in banda laterale, capito? E niente, qui non ho le bande laterali, questa è solo AM/FM, questa piccolina, questa mi raccomoda in macchina, e siccome qua ho anche i muratori che stanno lavorando, quindi avevo scollegato il cavo dell'antenna, e ieri sera ho avuto un attimo di tempo, l'ho ributtato giù e l'ho ripassato dentro il corrugato, e per adesso in questi giorni sono così un po' in emergenza, ma penso che nel giro di una settimana, 10 giorni massimo, mi rimetto tutto a posto. Stavo pensando a prenderne una nuova, tipo quella CRT SS 9009, ma devo vedere un po' le caratteristiche, le misure e poi insomma i tempi di spedizione, insomma, quali sono, ma 2 o 3 giorni dovrebbe arrivare. Sì, quelle vanno bene, le ho sentite, 3009, ce l'ha Marco, funziona benissimo, una bella modulazione, è una radio di nuova generazione, omologata, per cui non c'è problema. Ok, mi hai detto chi te lo sta riparando questa radio? L'ho portata a Borore da Albino, lui mi aveva aggiustato anche il Galaxy Saturn, quello che era di Gianni, che non gli aveva nemmeno, non era riuscito neanche Vittorio a mettergli a posto, io l'avevo portato lì da Albino e lui me l'aveva rimesso a posto bene, e poi siccome era troppo grande, tanto non lo usavo, Gianni ridammelo, allora l'ho rivenduto a lui praticamente, mi ha ridato i soldi che gli avevo dato più la lavorazione, insomma, quelle cose lì, e sono contento che lo sta usando lui, insomma, però l'ha rimesso a posto bene. E questo di Borore, mi hai detto? Sì, esatto, di Borore è un CB, un vecchio CB che ha la passione, c'ha una sorta di laboratorio a casa sua e c'ha uno scaffale pieno di vecchie radio, c'ha di tutto, aggiusta televisori, questo, stufe, ti mette a posto di tutto, ho visto la gente che va, gli porta aspirapolveri da mettere a posto, eccetera, e se la cava, diciamo, con le radio, dai, ci sa mettere le mani, sa cosa toccare, e quando ordina i pezzi sono quelli giusti. Per la radio di Gianni mi aveva detto, no, questa se la vuoi far funzionare ci vogliono i suoi finali originali, e mi ha indicato lui il sito, però dice ordinameli tu, perché io molte volte ordino le cose, non mi arrivano qua, eccetera, e praticamente me li hanno mandati dagli Stati Uniti, i 2 finali, capito? E una volta messi quelli originali, la radio è andata bene, penso che durerà anche parecchio. Io pensavo che fosse quello Carlo di Chiaramonti che te l'avesse aggiustata. No, negativo, guarda, me l'aveva consigliato Claudio, di di dirlo a questo albino, capito? Perché ne ha messo diverse a posto di apparecchiature, anche so di apparecchiature radioamatoriali. Ed è un appassionato questo. Esatto, esatto. Se lo vedi non gli dai 5 lire quando lo vedi, invece sa quello che fa, insomma. Magari avrà anche dei limiti, per carità, però quando ti dice si può aggiustare è sempre così e riesce ad aggiustarla. Ma com'è quello che fanno vedere su internet? L'hai mai visto tu, quel tipo che le riportano da tutta Italia, che dai video, decine e decine di radio, giusto? Sì, sì, mi sa che una volta l'ho visto. Guarda, questo è un amico di Massimiliano Bulldozer, e infatti Claudio aveva chiamato lui per farmi dare il suo indirizzo, capito? E anche Massimiliano mi ha detto che gli ha messo a posto un sacco di volte le radio, quindi ci sono andato, diciamo, a colpo sicuro l'altra volta, e adesso lui mi ha garantito che ci vorrà un po' di tempo, ma già la mette a posto, capito? Queste nuove generazioni sono SMD superficiali, hanno doppia facciata, il circuito stampato, che se non hai attrezzature di nuova generazione è molto difficile, ci sono componenti di dimensioni molto piccole, per cui viene anche male a lavorarci, se non c'hai quelle ultrasuoni, sondature ultrasuoni e cose così, certi integrati non riesci a togliere. Magari un Saturn, ecco, è tutto di vecchia generazione, ci sono i transistor facili da smontare, i condensatori, una radio, diciamo, abbastanza facile da riparare, basta avere la componentistica. Questi nuovi, che sono tutti miniaturizzati, non c'è niente, tipo i televisori, li hai visti come sono adesso, non c'è nulla, per cui da riparare poco e niente, prendi, cambi la scheda e si fa prima, pure ti compri la radio nuova. Ok, vediamo se nel frattempo vuole entrare qualcuno, lasciamo un secondino di bianco, avanti di nuovo dopo qualche secondo. Sì, Robè, magari è sabato sera e la gente magari è a guardare un po' di televisione o si trattengono più a cena e più tardi magari entra qualcun altro. In effetti sono le 9:10, dai. Io è perché sono rientrato poco fa da lavoro, mi sono messo subito a mangiare perché avevo fame, e sono solo soletto, mia moglie è a Roma con mio figlio e rientrano domani sera col volo di Roma, l'ultimo che arriva alle 10:30, quindi sino a domani sono da solo e poi si riprende la solita routine. Adesso cambiando argomento, visto che tu sei molto addentrato nel merito, l'hanno fatta la continuità territoriale per gli aeroplani? Sì, sì, sì, no, già l'hanno fatta subito, anche se hanno pasticciato un pochettino. Praticamente ITA, che è quello che rimane di Alitalia, si è presa Milano, invece la tratta di Alghero Roma Fiumicino la fa Aero Italia, capito, che è una nuova compagnia italiana, ha pochi aerei, però per adesso, diciamo, sono sufficienti e sta andando diciamo abbastanza bene, la gente non si sta lamentando e sono puntuali, stanno rispettando, insomma, i canoni della continuità per i sardi, a parte qualche piccolo problema di equipaggi che abbiamo avuto i giorni scorsi, che poi ti dirò, dai, però per adesso è così. Poi quando finirà questa tranche di continuità, speriamo che facciano un bando unico in Sardegna, la regione Sardegna dovrebbe fare un bando unico, e chi partecipa, le compagnie che partecipano alla continuità devono prendere Cagliari, Olbia e Alghero, tutto, cioè non che una compagnia prende una tratta, l'altra ne prende un'altra, se no non usciamo più. A Olbia c'è la stessa cosa, una tratta la fa ITA e l'altra la fa Volotea, capito? Cagliari invece ITA si è preso tutto, capito, perché lì gli conveniva di più. È una vergogna, guarda, siamo una vergogna alla Sardegna. La Corsica sono 300.000 abitanti, hanno un servizio aeronautico da paura, 10 volte migliore del nostro. Fanno tutto il mondo giri da Iaccio, dall'aeroporto di Iaccio, continuamente ci sono voli, soprattutto il periodo estivo. Qua non riusciamo a fare niente. Se tu vai a Palma di Maiorca, da tutto il mondo arrivano, non so quante le compagnie ci sono, una cosa impressionante. Tu mi dai Palma di Maiorca, un isolotto piccolino, però cavolo, considerando che noi siamo molto di più, d'estate c'è una marea di turisti e non riusciamo a fare un servizio. Allora sarà tipo Blu Panorama, questo Air Italia, come si chiama, come qualità, che era una vergogna, quella compagnia rumena. No, questi sono italiani, praticamente gli equipaggi sono quello che resta un po' da diverse compagnie, ma sono tutti italiani, capito? Sono molti ex Alitalia, oppure Meridiana, capito? Quelli che diciamo sono rimasti senza far niente, sono approdati in questa compagnia che si è presa qualche tratta della continuità in Sardegna. Per adesso sta andando bene, poi loro collegano, hanno molti voli che fanno la Grecia, però da Roma, collegano la Grecia, Atene, anche Cipro e Malta, che ho visto, perché stavo guardando il loro sito, le tratte che hanno, e ho visto che insomma qualcosina ce l'hanno. Piano piano speriamo che gli vadano bene le cose. Se questi si comportano bene e i sardi sono contenti, ben venga un'altra compagnia se funziona bene. Io non è che sono favorevole solo a che rimanga Ita, o anche questi sono italiani, hanno diritto anche loro a lavorare, quindi ben vengano. Per adesso sta andando tutto bene, il volo ce l'hanno basato, cioè significa che fa sosta notturna Roma per esempio a terra, rimane qua, praticamente hanno un tecnico qua a terra ad Alghero che fa tutti i controlli, quindi la mattina parte l'aereo puntuale alle 7, a volte parte anche prima, è praticamente controllato già dalla notte, quindi il tecnico lascia a bordo il registro, diciamo, tecnico, che è tutto a posto, quindi il comandante verifica e partono sempre puntuali, quindi per adesso si sono organizzati bene, speriamo che continuino così, poi vediamo il prossimo anno cosa ne verrà fuori da questa continuità. Gli aeromobili come sono? Riciclati o sono moderni? No, già sono moderni, sono come quelli che usa Ita, capito? Hanno una livrea bianca con la scritta Aero Italia con i colori della bandiera italiana, però sono super 80 quelli che insomma che usa anche Ita, già sono abbastanza recenti e non è roba vecchia. E poi un'altra domanda, visto che stiamo parlando di aerei, e li hanno cambiati gli orari di Malpensa o cosa c'è lì là, dove attirare la terra, no? Ci avevano messo alle 10 del mattino, rientrare alle 6, cioè orari stranissimi, li hanno modificati? No, negativo, perché praticamente gli aerei Ita, cioè quelli che fanno la tratta Alghero Milano Linate, non fanno più sosta notturna. Praticamente il volo che la mattina parte alle 8.55, quindi alle 9, prima arriva, cioè fa Milano Linate Alghero, sbarca i passeggeri e riparte dalla Sardegna, quindi quando tu arrivi a Milano sono le 10 del mattino, è già troppo tardi. E praticamente l'hanno fatto per non pagare le spese di hotel agli equipaggi, perché facendo sosta notturna l'equipaggio rimane qua a terra, capito? Ed erano tutti alloggiati all'hotel Carlo V ad Alghero, quindi quello è anche costoso, quindi hanno tagliato molto Ita, capito? E quindi per tagliare le spese hanno cambiato gli orari e purtroppo quello rimane così. Invece questi di Aero Italia hanno tenuto lo stesso orario, perché l'aereo arriva alle 10:30 qua, sbarca, rimane in sosta notturna, gli viene fatta la manutenzione di notte, capito? E alla mattina è pronto, quindi è puntuale sia quando arriva la sera alle 10:30, sia partendo la mattina, perché tu devi garantire ai sardi che l'aereo sia pronto, capito? Perché già siamo penalizzati che siamo in un'isola e non possiamo permetterci che un aereo, per motivi diversi che possono essere problemi di tipo meteorologico oppure anche tecnici, siccome arriva da fuori arriva in ritardo. C'è gente che dalla Sardegna si sposta per diversi diversi problemi, non solo per lavoro, c'è gente che si sposa e si sposta per che ne so, per curarsi, capito? Ci sono studenti, ci sono sardi che vanno a fare un concorso, e quindi c'è il rischio che se tu vai a Milano perdi anche queste possibilità, quindi ti tocca arrivare la sera prima e pagarti una notte d'albergo con una spesa e un esborso di soldi notevole, capito Robè? Quella è una vergogna, una cosa allucinante, non è meglio tenere un aereo qua di scorta e parte l'altro, si alternano. Sì, esatto, hanno tolto l'aereo che arrivava e faceva sosta notturna e hanno causato tutti questi problemi. Cioè, se tu devi essere a Milano perché hai un concorso, perché ci sono tanti concorsi là, oppure hai una visita alle 9 del mattino, devi essere lì da presto, quindi non puoi partire da qua alle 9 per arrivare alle 10, capito? È troppo tardi. E quindi se hai impegni di mattina presto a Milano, devi praticamente partire dal giorno prima e ti devi pagare l'albergo, altrimenti rischi di perdere tutto. No, sono una cosa ridicola, vergognosa, vabbè, non contiamo niente a livello nazionale, non contiamo niente. Che voli abbiamo noi fissi tutto l'anno, diciamo, a parte quelli estivi, come si chiama, l'Alghero, cosa c'è? C'è di Milano, Roma, Bologna, c'è ancora? Sì, ci sono i due della continuità, Milano e Roma. Poi c'è, è rimasto Ryanair che ha Bologna, Pisa, Bergamo e poi c'ha Malpensa, capito? C'ha anche Malpensa bisettimanale, c'ha Bari che è partito stasera, qualche altra destinazione, però adesso dal 26 cambia tutta la programmazione perché entra la programmazione estiva e quindi riprende anche come si chiama l'altra compagnia che fa Malpensa, come si chiama, bah, adesso mi sfugge, c'è la Wizz Air anche che collegherà c'era tutto l'anno perché collega Otopeni, l'aeroporto, capito, in Romania fa Otopeni, però poi durante il periodo estivo la Wizz Air collega anche la Polonia e fa mi sa Varsavia e un'altra destinazione, un'altra città della Polonia, e poi dovrebbero ritornare tutte le compagnie charter, la Thomson Fly, la TUI Fly, quelle della Norvegia, della Svezia, capito, che dalla pandemia non avevano più ripreso, però nella programmazione estiva ho visto che ci sono tutte, quindi sarà un gran casino di nuovo d'estate l'aeroporto, perché ancora non hanno finito i nuovi arrivi, si sono dilungati quei lavori, li avevano sospesi e quindi insomma i soliti problemi, dai. Speriamo che si diano una mossa in questi mesi, così quando inizierà la stagione con tutti i voli almeno si lavorerà meglio. Capa, ma Pisa e Bologna sono bisettimanali, trisettimanali, come sono? Allora, Pisa e Bologna erano bisettimanali, però nel periodo estivo li mettono quattro volte la settimana, capito? Capa, e Genova l'hanno tolto del tutto? Sì, Genova ha tolto del tutto e anche Torino, però Ryanair ha messo anche Treviso, capito? Vicino Venezia, per cui se devi andare a Venezia sei a 20 minuti di autobus, capito? E quindi anche quello è un buon collegamento bisettimanale. No, ma io non riesco a capire, hanno tenuto Bari, non so chi ci possa andare a Bari, perché mi dicevi Napoli, avrei capito, ma a Bari chi ci va? Era preferibile tenere Genova, perché Genova c'è tante, c'è Firenze, Pisa, ti puoi spostare con la macchina, un'ora di macchina e vai da tutte le parti, ma a Bari cosa ci vai a fare? C'è un sacco di gente comunque che ci va, perché anche oggi, aspetta che ti dico quanti passeggeri aveva il Bari, che c'ho il prospetto perché me lo mandano. Allora, security, vediamo dov'era il collegamento di oggi, eccolo qua. Allora, Bari aveva 178 passeggeri, Bergamo 188, Fiumicino 28 passeggeri alle 19 in partenza, perché di sabato non ci va quasi nessuno, Linate 56 e quello che ti dicevo, Treviso 172, tutti Ryanair, i voli Ryanair sono tutti pieni perché nel fine settimana la gente va a Venezia e si prende questo volo, capito, che è partito alle 20.35 oggi. Per andare a fare un giro a Venezia, non lo so, una volta era una comodità per andare a Genova, io ci sono andato diverse volte, perché poi uno ci ti vuole fare anche vacanza, per dire, un giro turistico, puoi andare, e c'è nulla. Quello di Bergamo, diciamo, è abbastanza importante, c'è ancora Olio. Pensa che stavo guardando, scusa Roberto, Otto Peni, quello per la Romania, no? Che lo fa la Wizz Air, 225 passeggeri aveva oggi, era pieno, secondo me le ha messi anche sulle ali i voli, i passeggeri. E perché lì ci stanno 225 persone? Sì, perché ha una configurazione più grande questo della Wizz Air e quindi carica a volte anche a 232 arriva, il massimo è quello. E quelli sono quelli modificati che hanno ristretto il ricoso, i vecchi coso dell'Alitalia hanno ristretto i sedili, li hanno messi più vicini, che c'era blu panorama quelli aerei, uno schifo, mamma mia, quando sono andato era una cosa vergognosa, ne scendevano i pezzi così, ma cose, tu mi dai, non te ne frega niente, ma la vera mente interno non te ne può cadere la cornice del coso, dell'oblò, il coso da ribaltinare il sedile ti rimaneva in mano, la maniglia del coso a pezzi, era aerei proprio, sembravano tipo fantuzzi. Sì, sì, una volta sono partito da Cagliari, ma io ti sto parlando, pensa, non avevo neanche figli ancora, eravamo sposati con mia moglie 3-4 anni e mi ricordo che era luglio, non avevamo organizzato niente, gli ho detto guarda, andiamo in agenzia per Ferragosto, magari troviamo qualche destinazione, magari ce ne andiamo in un posto fresco eccetera, non c'era niente, non c'era, l'unica cosa interessante era il tour della Tunisia e c'era il volo diretto da Cagliari con la Tunisair. Andiamo a Cagliari a prendere questo volo e come ho tirato la cintura per metterla e mi ha messa presso tutto lo schienale del sedile, cioè il rivestimento, l'imbottitura si era staccata dal sedile ed era tutto sgangherato così. Guardo sotto, addirittura c'erano le pennellate, no, dei poggiapiedi tinti col pennello, capito? Una cosa, però siamo arrivati sani e salvi. E il comandante, mi ricordo che solitamente ti avvisano, stiamo per atterrare, eccetera, invece lì niente. Abbiamo guardato dall'oblò, abbiamo visto i tetti delle case di Tunisi, praticamente non ci avevano neanche avvisato che stavamo atterrando. Però diciamo è stato divertente. Sì, ma tu stai parlando di diversi anni fa, io sto parlando 3-4 anni fa, non sto parlando blu panorama quando c'era 3 anni fa mi pare, no? Sì, sì, esatto, e evidentemente gli aerei li avevano presi chissà da dove, da chi, capito? Era roba vecchia e quindi, ma infatti non sono durati tanto. No, infatti, ma io mi ricordo le ginocchia, non riuscivo a stare, un dolore, perché io poi ho le gambe sempre affaticate, cioè me ne soffro di cosa, di dolori reumatici alle le gambe, per un fortuno che ho avuto giocando a pallone, ma appoggiato, mi devo stare sempre muovendo, perché non riuscivo a trovare la posizione, perché toccavano le ginocchia, io non è che sia alto 2 metri, sono 1,78 m, non sono altissimo, però le ginocchia, figurati uno che è alto 1,90 m, come fa a starci di te, non avevi possibilità di muoverti, le ginocchia, perché, e non stiamo parlando di tratte lunghe, stiamo parlando di anche lo Fiumicino che dura quanto dura, neanche un'ora, 55 minuti più o meno, e lì ero già con le gambe a pizze, era una cosa allucinante, un fastidio, mamma mia. No, mia sorella invece tanti anni fa, lì hanno fatto l'atterraggio di emergenza, ad Alghero sono riatterrati, gli esplosi, gli oblò sono esplosi quando erano impressurizzati, qualcuno si è fatto anche male, si è spaccato i timpani e poi sono ritornati indietro, stiamo parlando più di 40 anni fa. Ecco, buonasera. Ciao Gavino, ben sentito. Buonasera Gavino. Buonasera Roberto e buonasera Carlo, ben sentiti tutti e due. Avanti Roberto. Aspetta, cosa gli hai fatto? La barbetta, la spillo li hai messo.